e dalla Val di Susa a Reggio Calabria, insomma, ci corrono quasi un migliaio, forse pure di più di un migliaio di chilometri. Però, insomma, la lotta, come si dice, continua e va avanti anche a Reggio. No, dico in mezzo tutti i cortei presidi. Dovremmo avere in collegamento un compagno appunto di Reggio Calabria. Pronto? Ci sì, senti? Pronto. Ciao. Ok, niente, raccontaci anche a Reggio cosa succede, cosa è successo oggi pomeriggio. Noi oggi pomeriggio abbiamo fatto un presidio davanti a Banca Intesa, il gruppo Intesa San Paolo, e per protestare contro le banche che sono le maggiori, diciamo, investitrici in quest'opera, anche per denunciare il conflitto di interessi di un ministro dello sviluppo che oggi sostiene un'opera che fino a ieri l'amministratore delegato di questo gruppo invece sponsorizzava appunto per incassare. Abbiamo fatto questa iniziativa davanti nel centro cittadino con Antinando e devo dire con un discreto risultato, perché comunque in questo periodo le banche per tutta una serie di questioni sono un nemico comune per tutti, però è importante continuare a mantenere visibilità attorno alla battaglia NoTav, perché far capire che non è solo oggi la questione del treno alta velocità quello che è in discussione, la democrazia, il futuro di questa terra. Senti, so che fra l'altro, insomma, mi era giunta voce, perché poi fra l'altro attraverso, insomma, i canali così mediatici queste cose non girano. Sentendo un altro compagno di giù qualche giorno fa, ho sentito che avete mandato addirittura delle arance in Val di Susa, se ho capito bene. Ci racconti sì, un po' questa iniziativa? Noi abbiamo fatto una campagna di solidarietà quando ci sono stati gli arresti per contribuire alle spese legali, e insieme ai compagni della Viana di Gioia Tauro che lavorano con i produttori, con i contadini del posto e lavorano insieme ai migranti. Il caso Rosarno è un caso conosciuto in tutta Italia. Insieme a loro abbiamo messo su questa campagna, abbiamo spedito 2 tonnellate di arance in Val di Susa affinché potessero essere distribuite lì e ricavato andare